Come vanno? Beh, per adesso abbiamo naturalmente solo degli exit poll, perché si inizierà a scrutinare domani mattina. Ovviamente siamo il fanalino di coda, no? Cioè, dopo il disastro delle politiche arriva il disastro delle regionali. No, che disastro non è, nel senso che era un risultato abbastanza quasi scontato, nel senso che vede questi exit poll vedono Nicola Zingaretti, il governatore uscente, come vincente, in una forbice che va dal 30 al 34%, segue Stefano Parisi, che dice, ha dichiarato immediatamente di aver raccolto il voto di destra che alle comunali aveva votato la Raggi, ed è per questo che sarebbe sopra la Lombardi, che prende tra il 25 e il 29%, e sotto, molto molto sotto, il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, che per la verità, insomma, ha dato battaglia in maniera notevole. Ci si aspettava qualcosa di più da questo candidato indipendente, che però comunque ha tolto, quanto stando sempre agli exit poll, ha tolto quel 3-4 punti percentuali a Parisi che gli avrebbero fatto dare del filo da torcere a Zingaretti, ecco. Questo è quello che emerge da exit poll. Qui stiamo parlando addirittura di exit poll, vero? Sì, solamente. Sì, sì. Quindi sì, per ora, visto che non c'è scrutinio, non ci saranno altri dati. Domani alle 15. Ecco, diciamo così, il fatto che Zingaretti sia rappresentato da una coalizione più ampia, diciamo così, rispetto a quello che era la scelta del PD e del centro-sinistra, sembra essere quella che ha portato alla vittoria, cosa che non sembra accadere in Lombardia. Sì, sembrerebbe essere uno dei dati vincenti. Allora, poi bisognerebbe scorporare il voto. Sicuramente è sostenuto da 6 a 5 liste, diciamo, oltre la sua, che qualcosa avranno influito. Ci ho detto anche Parisi, voglio dire, alla Lega, Fratelli d'Italia, Lega che peraltro stiamo vedendo sta avendo dei risultati, insomma, notevoli, quindi evidentemente anche nel Lazio avrà fatto la differenza, probabilmente, perché io credo che i voti che non ha preso Betta Lombardi rispetto al risultato nazionale del Movimento 5 Stelle evidentemente siano confluiti nel Lazio a una forza di destra, e quella forza sarà la Lega, probabilmente. Poi dobbiamo vedere i risultati finali. Certo è che, insomma, la sinistra compare dentro Zingaretti, ecco, se mi permettete questo verbo, perché potere al popolo non so come dire, non compare neanche, siamo sotto al 2, ecco. sempre stando agli exit poll, quindi vanno presi con le pinze. Ilaria, ciao, sono Francesca. Ciao Francesca. Invece ci racconti anche qualcosa di come è stata percepita questa campagna elettorale, perché almeno dal tuo osservatorio, ovviamente, perché comunque nel Lazio, se guardiamo il discorso delle affluenze, vediamo comunque una leggera flessione. Ah beh sì, quello è un dato, cioè è un altro dato importante. Per esempio Pirozzi puntava moltissimo su tutte quelle persone che non andavano a votare, queste persone formano quasi il 40%, perché oggi adesso il Lazio l'ultimo dato era al 68%, ero rimasto al 62%, 68%. Di affluenza, quindi insomma è una bella astensione rispetto al 72 del 2013. Sì, tra l'altro è incredibile, perché il Lazio ha il 68,97% di affluenza per quel che riguarda le regionali, poi dopo invece vai al Senato e c'è il 73,71%, e la Camera il 74%. Io penso che, no scusami, non ti volevo interrompere, mi sento un po' indifferita rispetto a me. Mi viene da dire che c'è una scelta di non voto per alcuni alle regionali? È una domanda. Sì, credo proprio di sì, ma questa credo anche che sia un po', diciamo, la lontananza dall'istituzione regione, se ci pensi, questa è una cosa che si può registrare sempre nelle elezioni regionali, una minore affezione rispetto a un'istituzione che io credo sia sentita come più lontana. Devo dire che Zingaretti quasi non ha fatto la campagna elettorale, nel senso che da governatore a lui è bastato proseguire, diciamo, nelle cose che aveva iniziato, o comunque fare pubblicità, ma anche continuare a fare il suo lavoro, non so, inaugurare una scuola, dargli il nome di Regeni, insomma, fare cose che sono sulla scia del suo mandato. E dopodiché dobbiamo anche pensare che questa campagna è di fatto appiattita sul voto nazionale, ma come stiamo vedendo anche dai commenti, nel senso che poi quando vai a votare voti i partiti che voti al nazionale, no? Per cui vota chi ha, e di fatto queste elezioni lo stanno testimoniando, vota chi ha un'affezione a un partito, cioè se si pensava che magari gli indipendenti a livello provinciale, regionale, perché poi questa è anche la differenza nel Lazio, che nel Lazio vinci le regionali se vinci a Roma, in Lombardia non è così, però ci sono altre 4 province, Frosinone, Viterbo, Latina e Rieti, che comunque sono piene di persone che o non vanno a votare oppure è un enorme voto di protesta, quindi insomma, diciamo che si pensava che queste forze di protesta avrebbero raccolto di più, invece evidentemente poi quando si va a votare dice vabbè, faccio la X sul partito che voto anche al nazionale. Sì. Secondo me c'è anche questo.